Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Il ministro del welfare Sacconi ne aveva dato un'anticipazione proprio un anno fa all'incirca. Entro il 2010 aveva detto ogni cittadino riceverà una certificazione annuale sullo stato del proprio conto previdenziale, quindi sulle potenziali prestazioni pensionistiche maturate. Quindi anche in Italia, come già avviene in altri paesi d'Europa, i lavoratori dovrebbero ricevere presto una comunicazione in busta arancione che li informerà sull'andamento della loro posizione previdenziale obbligatoria, quella erogata dall'INPS per intenderci. Sì, ma quando e a chi arriverà precisamente questa documentazione? Allora, intanto, per il momento si viaggia con grande ritardo, per cui non riceveremo nessuna busta arancione nelle prossime settimane. Sarà sì recapitata, ma a quanto pare ad un campione ristretto di contribuenti. Quello che invece entro fine anno riceveranno qualche milione di lavoratori è il prospetto esemplificativo personalizzato, che è il documento che fornirà agli iscritti alle forme di previdenza complementare la stima dell'importo che dovrebbero percepire una volta andati in pensione dal secondo pilastro. Ma come si calcolano queste proiezioni ed è possibile che per avere un'idea del nostro trattamento pensionistico dobbiamo per forza attendere questi documenti? Assolutamente no, sono molto importanti, però ci sono anche delle alternative di cui oggi vi parleremo con il nostro Marco Lo Conte, Plus 24 del Sole 24 Ore, bentornato. Buongiorno, ciao Deborah, buongiorno a tutti. Autore capofila anche della storia di copertina di sabato scorso di Plus 24 proprio su questo argomento, calcola la tua pensione. E poi Sergio Sorgi, vicepresidente di Progetica, una società di consulenza soprattutto specializzata su queste tematiche. Sorgi, bentornato a Salva Danaio. Grazie moltissimo e buona giornata. Assente da un bel po' di tempo, peraltro recentissimo autore anche di una nuova guida del Sole 24 Ore, la guida ai fondi pensione, perché servono, come funzionano, come sceglierli. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Se volete questa mattina fornirci i vostri dati anagrafici, contributivi, quelli maturati fino ad ora, reddituali, saremo in grado con il software del Sole 24 Ore di darvi anche un'indicazione di massima su quella che potrebbe essere al momento della vostra pensione il vostro assegno. Quindi se volete sbizzarrirvi con noi questa mattina, mi veniva da dire divertirvi, non è un gran divertimento fare questo lavoro, però Marco, magari aiutami, però è un impegno sul quale dovremmo mettere la testa un po' tutti. Semplicemente è importante, è opportuno essere consapevole di quello che ci accade, perché non c'è peggior pericolo della nebbia che ci troviamo di fronte nella nostra vita. Che sia una buona, che sia una cattiva notizia, è importante saperla infatti, in modo tale che possiamo anche correggere la rotta delle nostre scelte previdenziali qualora appunto l'evidenza poi ci dimostrasse appunto che è necessario intervenire. Vi ho ricordato i numeri per intervenire appunto per parlare con noi questa mattina: 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Diamo anche un'occhiata alla borsa, che questa mattina era partita negativa dopo i rialzi di ieri, adesso qualche listino sta risollevando la testa. Oggi abbiamo peraltro una raffica di dati economici dagli Stati Uniti davvero intensa, sussidi alla disoccupazione, l'inflazione, diversi indici manifatturieri, anche alcune trimestrali, Federal Express, Palm, questo è il quadro. Parigi scende dello 0,17%, Francoforte sulla parità, Londra ha agganciato il territorio positivo, Milano appena negativa per lo 0,08%, a Milano sta pesando la trimestrale di Enel, diffusa stamattina da Londra, Enel perde l'1,25%, il gruppo ha tagliato il dividendo. Probabilmente questo ha un po' pesato nelle scelte degli investitori oggi, che stanno abbandonando il titolo. Mediolanum è il peggiore, perde l'1,60, perde un punto Tenaris, meno 0,8 per Geox e Saipem. Segno più invece per il Banco Popolare, in rialzo dell'1,18%, Telecom è più 0,9, Luxottica più 0,9, CIR più 0,8. Ieri conti di Unicredit, oggi il titolo viaggia ancora in rialzo dopo il forte balzo di ieri di circa lo 0,23%, e stamattina abbiamo avuto i risultati anche di Generali. Ieri peraltro ricorderete Unicredit ha comunicato di aver messo in vendita e aver venduto anzi la sua quota. Generali oggi guadagna lo 0,33%, il gruppo ha chiuso il 2009 con un utile di 1 miliardo e 300 milioni di euro, in rialzo del 52%, in crescita del 52% rispetto al 2008 e leggermente al di sopra delle attese di mercato. Euro su dollaro a 1,3670, lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina. Oggi ritorniamo sulla pensione, sulla nostra pensione, su quella complementare in particolar modo, e cercheremo di orientarci attraverso delle bussole in arrivo. Sentiamo. Nessuna busta arancione in arrivo per i lavoratori italiani. La lettera contenente la previsione della futura pensione che il governo aveva annunciato per il 2010, infatti, non è ancora pronta. Di fatto, la busta arancione già diffusa in altri paesi, soprattutto del nord Europa, tiene informati sull'andamento della posizione previdenziale tutti i contribuenti, sia chi ancora lavora, sia chi è già in pensione. Le ragioni dello slittamento sono numerose. E in ogni caso si tratta di una macchina complessa che coinvolge 25 enti previdenziali. E se alcuni, come l'INPS, sono praticamente pronti, altri sarebbero decisamente più indietro. In realtà la busta arriverà entro l'anno solo a un gruppo di lavoratori. Un vero e proprio test che coinvolgerà dipendenti e autonomi che hanno iniziato a lavorare dopo il 1 gennaio 1996 e che quindi rientrano nel puro sistema contributivo. Saranno loro i primi a cimentarsi in questa operazione trasparenza sulla pensione futura. Gli altri lavoratori, nel frattempo, possono continuare a monitorare la propria posizione contributiva attraverso internet o il call center INPS, richiedendo l'estratto contributivo, un certificato che riporta, suddivisi per anno, i dati contributivi registrati negli archivi INPS. 800 24 00 24, torno a ricordarvi il numero verde per i vostri interventi. La questione della busta arancione, Sergio Sorgi, è sicuramente molto affascinante e chi ne parla nei giornali, non solo recentemente, ma insomma chi ha avuto modo di spiegare a lettori dei giornali, ad ascoltatori di altri media, in cosa consiste questo documento, ha più volte richiamato l'esperienza svedese, che è forse quella più interessante su scala europea, ma non è l'unico paese dove una documentazione di questo tipo viene inviata a tutte le persone che stanno ovviamente facendo riversamenti per formare la propria versione, la propria pensione del futuro. Quali sono le altre più importanti, più all'avanguardia in Europa? Ma diciamo che le esperienze sono effettivamente diverse. Le sei principali sono Svezia, Francia, Germania, Finlandia e poi oltre Europa Stati Uniti e Cile. Ognuno di questi sei paesi ha scelto strade diverse. Ma diciamo che proprio da qui probabilmente dovremmo imparare, perché siccome dietro ogni paese c'è il frutto del lavoro di tanti esperti che provengono anche da direzioni diverse e probabilmente anche di qualche errore di gioventù, io credo che questo sia proprio il primo punto di vista dal quale partire. Che cosa unisce questi documenti? Ma prevalentemente quello che li unisce è proprio il fatto che ciascun documento, siccome sa che il futuro è distante e il futuro non consente in anticipo dei calcoli, ma solo delle stime, considera più o meno diversi fattori, in modo tale da non dare un'informazione puntuale che poi ogni anno dovrà essere smentita, ma da dare così un campo di variazione che riguarda gli scenari, in modo tale che le persone siano sempre attente e comprendano che, insomma, vedremo solo alla fine effettivamente quanto avrò, e prima procediamo per avvicinamenti, per dare alcuni esempi. In Svezia, ad esempio, utilizzano proiezioni con scenari di entrate, scenari di rendimento, scenari di crescita della carriera e scenari dell'inflazione. La stessa cosa fanno in Germania. In Germania danno ipotesi diverse dicendo: beh, se il tuo salario cresce poco avrai questo, se il tuo salario cresce un po' di più avrai quest'altro. Quindi si fanno più simulazioni possibili. Ma come fanno tutte le istituzioni pubbliche perché quando affrontano il futuro? Perché è normale che venga così, perché del futuro ovviamente non possiamo sapere nulla, ovviamente. Né quello personale né di quello generale, ovvio. E siccome la previdenza pubblica somma in sé diversi rischi, fra cui quello della vita media, ad esempio, da Sacconi in poi, da agosto 2009, noi non siamo neanche certi di quando andiamo in pensione. Poi c'è il rischio PIL. Abbiamo visto quest'anno come un PIL che decresce ha un impatto enorme sui calcoli pensionistici futuri. Ci sono le riforme che sono rischi anch'essi, perché se il governo l'incertezza ha bisogno della legge, certo. Assolutamente. E poi ci sono gli aspetti legati alla nostra vita personale. Se cambiamo lavoro, certo. La carriera, i buchi di carriera per i ragazzi oppure per gli over 50 anni. Allora, quando i rischi sono tanti, come nel navigatore della macchina, non è tanto importante l'orario che dice quando partiamo, ma la capacità di apprendere nel corso del viaggio e quindi di insegnare alle persone che il rischio e l'incertezza sono costitutivi. Quindi teoricamente, qualora dovesse arrivare a breve, non sappiamo quando, se la busta arancione dovesse arrivarci, a bocce ferme ci dice quello che teoricamente dovrebbe essere il nostro trattamento pensionistico nelle condizioni attuali e poi simulando appunto determinate condizioni assolutamente variabili o no. non è esattamente. Questa è una speranza, invero non abbiamo traccia di questo orientamento, neanche dell'orientamento a mostrare scenari diversi. Un po' più dettagliato invece Marco Lo Conte è il prospetto, mi sbaglio con progetto, ma in realtà la Covip lo chiama progetto, però quello che a noi arriva è il prospetto esemplificativo appunto previdenziale, che è in sostanza la sintesi di quella che è la nostra posizione qualora avessimo sottoscritto una forma di previdenza complementare. Sostanzialmente è la busta arancione del secondo pilastro, ossia ci verrà detto: se continui a conferire questi risparmi nel tuo fondo pensione, tendenzialmente andando in pensione, smettendo di lavorare in quel periodo, in quella data, prenderai X. Questo è evidentemente un sistema di calcolo che tiene in considerazione una serie di variabili. Si è molto discusso e dibattuto su queste variabili, perché per dare una stima della propria pensione futura da qui a 10, 20, 30 anni in base alla situazione contributiva attuale, al possibile tasso di crescita, bene, ci sono molte variabili in gioco che possono variare sensibilmente il risultato finale: l'inflazione, la crescita del reddito, ossia dello stipendio, il rendimento stimato futuro di obbligazioni, titoli obbligazionari e titoli azionari nel prossimo futuro, appunto i costi che vengono sostenuti quando si aderisce a differenti strumenti di previdenza complementare. I PIP sono i più cari, i fondi aperti un po' meno cari, i negoziali ancora meno cari. Ebbene, molti fattori che possono incidere in maniera molto molto significativa, fino a far a trasformare quella rendita futura in qualcosa di più o meno grande, insomma. Per cui il dibattito è ancora aperto. Probabilmente questa non è il migliore degli strumenti, forse perfettibile, migliorabile, però è comunque una cosa che ci dà una stima. Prendiamola come una stima, per quanto certificata dall'autorità di vigilanza, quindi analizzata e vagliata con cura, ma una stima molto concreta. Sottolineo un punto: questa stima doveva entrare in vigore l'anno scorso. Sì. La bussola previdenziale, poi insomma si usa anche qualche metafora a volte per intenderci. Doveva entrare l'anno scorso, era arrivato il nuovo presidente della Covip, c'è stato anche un po' di cambiamento all'interno dell'autorità di vigilanza e c'era stata soprattutto molto fresca la batosta dei mercati finanziari del 2009. Qui è seguito però un recupero molto importante. Allora, un anno fa, di questi tempi, dire che si poteva stimare che gli indici azionari guadagnassero il 4% al netto di inflazione ogni anno nel lungo termine sembrava una bestemmia, perché il mercato aveva appena perso il 50%. Quest'anno invece siamo al punto in cui possiamo stimare una crescita molto più elevata. E quindi quel più 4% oltre l'inflazione, io non mi sento di dire che è giusta, non esiste una verità da qualche parte. Però diamo un'ulteriore dimostrazione dei parametri di variabilità, in sostanza. Esatto, perché i mercati hanno recuperato parecchio, e nei conti previdenziali degli iscritti ai fondi pensione c'è un segno più rispetto alla situazione pre-crisi. Certo. Questo è il caso, magari. Detto questo, esatto, adesso ci torniamo nella seconda parte di Salvadanaio. Allora, ritorniamo in diretta. Ancora buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Siamo ritornati questa mattina sui temi previdenziali, perché abbiamo un appuntamento entro fine mese. Dovrebbe arrivare a tutti quei lavoratori che hanno aderito a forme di previdenza complementare il cosiddetto prospetto esemplificativo personalizzato. È questo documento, appunto, che viene inviato dalle società che gestiscono fondi pensione o piani individuali di previdenza e che ci dovrebbero un po' fare il punto sullo stato dell'arte della nostra condizione previdenziale che attiene al secondo pilastro. Marco Lo Conte di Plus 24, Il Sole 24 Ore, questa mattina con noi, insieme a Sergio Sorgi, vicepresidente di Progetica, e pronti a rispondere naturalmente alle vostre domande. Cosa dovrebbe contenere questo documento? Un po' ne abbiamo parlato con Marco Lo Conte, e allora adesso cominciamo a rispondere anche a voi ascoltatori, che peraltro ho inviato, se volete, ho invitato appunto a fornirci, qualora vogliate sbizzarrirvi questa mattina, farvi fare un calcolo previdenziale da Marco Lo Conte, ad inviarci, a darci i vostri dati anagrafici, contributivi e reddituali, così che possiamo calcolare sulla base delle condizioni attuali quello che potrebbe essere il vostro assegno pensionistico. Roberto da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti e agli ascoltatori. Ci dica tutto. Io sono molto contento di questa novità, perché in passato più di una volta mi sono posto questa domanda. Non ho aderito a nessuna contribuzione previdenziale supplementare, poi un po' per pigrizia, un po' per difficoltà oggettive, non ho mai potuto soddisfare questa curiosità. Quale sarà il mio assegno pensionistico? Mm-hmm. Vuole fare da cavia, mi sembra di capire. Voglio fare da cavia, esatto. Proviamo allora. Molto volentieri. Allora, due premesse. Una, così come per le auto, per il mutuo, per un gestore di telefonia, uno cerca di fare mente locale per capire qual è la cosa più conveniente. È noioso forse ripeterlo, però non è più come un tempo che uno si lasciava fare, si faceva trascinare dalla corrente del fiume. Perché tanto, come dire, l'assegno che prendeva era il più vicino possibile all'ultima retribuzione. Complice l'allungamento della vita media, esatto. Una situazione di conti pubblici italiani non florida, diciamo così, che non consente di trovare soluzioni alternative. Le pensioni saranno sempre più basse. Chi andrà in pensione nei prossimi anni prenderà sempre di meno a parità di condizioni. Sì, no, peraltro voglio dire che ho visto che anche voi come colleghi insistete molto sulla condizione disastrosa nella quale si troveranno gli attuali quarantenni, e io leggo sempre tremando queste inchieste, Marco, ci sì. Troviamo tutti e tre in questa condizione, diciamo, più o meno. Sveliamo chi anche più, i nostri dati. No, tu sei molto più giovane di insomma. Noi. No, cioè, noi abbiamo preso un dato statistico, quelli nati negli anni 60 hanno una difficoltà in più, perché hanno meno tempo per aderire a una seconda pensione, a un secondo pilastro previdenziale, e non hanno i vantaggi di chi li ha preceduti, che avevano il sistema retributivo. Per cui ho provato a fare una elaborazione. Chi è nato nel 64, a pari condizioni di lavoro, prenderà, utilizzando il software che ci ha messo a disposizione Efeso, che ora faremo girare. Che faremo è anche, come dire, la simulazione che faremo, esatto, con Roberto, esatto. Utilizzando questo software. Insomma, sì. Chi è nato nel 64 prenderà all'incirca tra primo e secondo pilastro il 62,3% dell'ultimo stipendio. Chi è nato nel 75 prenderà il 65,1%, cioè un po' di più. Mm-hmm. Chi è nato nel 58 prenderà il 68,1%. Quindi meglio ancora. Chi è nato negli anni 60, insomma, è un po' in una situazione un po' più difficoltosa. Ma veniamo alla, sì, forse alla situazione, Roberto, del nostro ascoltatore. Roberto, ci dica un po' intanto anno di nascita, Marco, vuoi sapere? No, sì. Tutta la data di nascita. Mese e anno di nascita. Maggio 1972. Ci deve dire da quanti anni lavora? Diciamo da 12 anni. Quindi ci deve dire anche, diciamo, il cap indicativo, perché Reggio Emilia, sì. Sì. Reggio Emilia, 42.122 o 42.100. Va bene. 42.100. E un reddito lordo? Un reddito lordo, io ho in mano la busta paga del mese di gennaio che ho preso casualmente, un reddito lordo 1.916. Quindi 19, facciamo 22.000? Quindi facciamo 22.000. Annuali? Ah, sì. Sì, ecco. Sì, sì, annuali. Calcoliamo anche le tredicesime. Lei è un lavoratore dipendente, se non sbaglio. Di che settore all'incirca? Meccanico artigiano. Sì, ok. Faccio l'elettricista. Ok. Benissimo. No, tra l'altro poi spieghiamo anche adesso, a prescindere dal lavoro che sta facendo Marco Loconte, che chiedendo anche un PIN all'INPS, anche attraverso l'INPS è possibile fare questa simulazione. Ci infatti arriviamo. No, perché Roberto dice: non mi sono mai posto il problema, da chi vado? Tanto per cominciare, l'ente previdenziale pubblico può fornirci questa. Marco, l'ente previdenziale pubblico deve fornire una stima, chiamiamola così, un'ipotesi. Dirci intanto tutto quello che abbiamo versato, esatto, fino a questo momento. Ma ci deve fornire qualcosa di certificato, qualcosa di serio, di attendibile. Evidente che in questo vuoto di informazione tutti hanno anche il diritto, oltre che, come dire, l'onere e il piacere di fornire un'informazione complementare suppletiva. I software che calcolano in questo modo la pensione e tante altre cose sono operativi da decenni, sostanzialmente. Questo di Efeso ci dice che il nostro Roberto potrà contare su un tasso di sostituzione intorno al 62% dell'ultimo stipendio, andando in pensione nel gennaio del 35. Questa è l'indicazione che possiamo calcolare. Evidentemente, in caso di ulteriori, questo calcolando una crescita, una previsione di carriera media, cioè forse anche medio-alta, perché calcola un'inflazione più un 2% annuo. Evidentemente, se calcoliamo altre forme di crescita dello stipendio più bassa, il tasso di sostituzione aumenta, perché calcola tutto il monte contributivo conferito all'ente di previdenza nell'arco dell'anno, di tutta la sua vita lavorativa, quindi il tasso di sostituzione potrebbe salire al 71%. Allora, Sergio Sorgi, volevo aggiungere qualcos'altro rispetto anche alla validità, all'utilizzo di questi strumenti, perché chiaramente magari noi stamattina scateniamo un po' anche l'attenzione, no? Sull'andare a farci dei calcoli per capire, ma ci dobbiamo spaventare rispetto al risultato oppure come concretamente poi possiamo invece prenderlo in mano, questo risultato, e prendere in mano le redini della nostra vita previdenziale senza spaventarci? Sì, allora gli strumenti di calcolo, o meglio dovremmo dire di simulazione perché il calcolo si fa solo alla fine, che esistono in Italia sono strumenti accurati e di questo non si discute. Il tema è quello che dicevamo prima, ossia che i dati che genereranno una o l'altra pensione non possiamo saperli e cambieranno moltissimo. Per fare un esempio, l'ascoltatore che è più o meno un quarantenne, a seconda proprio della carriera, del PIL, dell'età pensionabile e via dicendo, potrebbe avere forse il 60%, ma magari il 51% o il 73% di pensione. Certo. E potrebbe andare in pensione nel 2033 o nel 2034 o in ottobre 2035 in funzione della vita. Allora, siccome non tutti hanno la fortuna di avere Marco come consulente, la prima indicazione è io starei molto attento col far da sé. Che infatti a livello internazionale è disincentivato in ogni modo, perché se facciamo dei pasticci con la nostra vita, questi pasticci non sono individuali, ma poi richiedono a tutta la società di colmarli, perché stiamo parlando di benessere. Quindi la prima cosa che dovremmo considerare, qualunque stima noi facciamo, è che siccome le cose sono complesse, sarebbe bene che questa stima fosse abbinata, primo, a un processo di educazione. E quando parliamo sia di busta arancione che di prospetto esemplificativo, la prima cosa che credo dovremmo chiedere è che siano precedute da un grande processo di educazione ai cittadini che capiscono. È un po' come quando è successo con la riforma del TFR, il famoso semestre del silenzio assenso, peraltro entrato in vigore con un anticipo di un anno, se non ricordo male, e molti hanno brancolato nel buio non sapendo totalmente che cosa fare. Esatto, questa è la prima cosa. E quei quattro spot che abbiamo visto parlavano di tutto tranne che dei bisogni o della comprensione. E la seconda cosa importante è avere qualcuno che ci affianchi. Questo qualcuno si chiama in tutto il mondo consulente. Importantissima la decisione del governo inglese questa settimana, che lancia la consulenza gratuita per i cittadini inglesi, con l'obiettivo di raggiungere 1 milione di famiglie nell'anno prossimo, proprio perché queste cose sono complesse. E così come è impensabile che i cittadini debbano diventare dottori di se stessi o avvocati di se stessi, sarebbe bene che le persone avessero qualcuno che li aiuta. Quindi, in sostanza, lei come consulente, allora che tipo e che grado di affidabilità assegna questi simulatori? Perché allora non ho ben capito se li dobbiamo utilizzare o meno. Io non vorrei discutere degli strumenti. Gli strumenti sono accurati. Il nostro navigatore, il mio navigatore è un punto di partenza, in sostanza. Il mio GPS con in macchina è accuratissimo. Non è lo strumento il tema. Ma non può sapere che da qui a Roma troverò una coda, magari mi fermerò due volte a far benzina, il tempo sarà... E non posso chiederglielo. Allora, ho bisogno, sulla base delle elaborazioni, di modelli probabilistici e di qualcuno che mi spieghi ciò che non sono tenuto a sapere, di passare da una indicazione che può essere o ottimista, il che è grave perché mi accorgerò solo tardi che non avrò la pensione che mi aspetto, o pessimista, il che è altrettanto grave perché credo che l'ansia in questo secolo sia già eccessiva. Allora, invece che un'indicazione apparentemente vera, oppure troppo ottimista o troppo pessimista, io credo che noi dobbiamo insegnare alle persone a gestire il cambiamento, e questo parte proprio dai modelli di simulazione dei consulenti. Volevo leggervi, peraltro adesso dobbiamo andare in pausa perché abbiamo i suggerimenti per chi in viaggio, una mail che secondo me è molto significativa, proprio per dare dimostrazione di come tendiamo un po' a sottovalutare questi problemi. C'è un ascoltatore che ci dice: io sono stato attivo, ho richiesto il PIN all'INPS, sono entrato nel sito, ho visualizzato la mia posizione, l'importo previsionale della pensione. Volevo chiedervi, la cifra che vedo è quella maturata ad oggi, quindi se sono a metà del percorso lavorativo devo moltiplicare per 2? Lui dice, in sostanza, se oggi teoricamente dovrei ricevere un assegno di 800 euro, terminato il periodo di lavoro sarà il doppio, 1.600, è probabile che possa essere anche la metà. Allora, tanto per accontentare questo ascoltatore che ci aveva scritto, che chiedeva se facendo un puro calcolo matematico poteva, sulla base delle indicazioni che ha maturato fino ad ora, fare il calcolo della sua pensione. Marco Loconte, tornando appunto a questo ascoltatore che dice, insomma, devo raddoppiare per 2 la cifra che vedo adesso dal terminale dell'INPS? No. E nemmeno dividere per 2, nemmeno moltiplicare per pi greco, per 3,14 alla seconda. No, bisogna ricalcolare tutto a seconda di quelle che possono essere ipotesi molto più raffinate. Questo è come dicevamo durante il traffico, questo è come un relitto che il mare butta su una spiaggia. Cosa ne fai? È qualcosa di molto importante, sottolineava Sorgi, però non hai modo di gestirlo e allora hai bisogno di avere una stima certificata e molto chiara da parte da un'autorità di vigilanza o dello Stato, perché non è possibile lasciare il futuro delle generazioni oggi in attività, e si spera che lavorino in maniera continuativa, in maniera proficua, continuamente, allo sbando, perché vuol dire mandare allo sbando le pensioni, vuol dire portare a livelli di povertà coorti, si dice in termini tecnici, ma generazioni di lavoratori con un impatto sociale devastante. Devastante, certo. E non è possibile, certo, scusa, se poi non parlo più. No, ma so, vedo che ti accalori, so che ti appassioni molto all'argomento. Il tema è questo, non si può, ed è opinione condivisa a microfoni spenti, ma lo facciamo anche a microfoni accesi, non si può non dare informazioni quando le cose vanno male, perché si ha paura ad aprire dei fronti politici, e invece darle soltanto quando le cose migliorano. L'anno scorso il PIL è sceso del 5% e quest'anno la busta arancione è slittata. L'anno scorso, due anni fa, le borse erano andate male e il progetto esemplificativo è slittato. Allora, vogliamo dire che non c'è stato abbastanza coraggio? D'accordo, non c'è abbastanza coraggio, ma d'ora in poi il coraggio ci vuole, perché sennò è indispensabile armarsi di un coraggio molto maggiore per contrastare i devastanti effetti sociali di portare generazioni intere alla pensione in totale povertà. Tra l'altro, Marco, adesso noi stiamo dando questa scadenza, questo che è il documento che dovrebbe arrivare a cavallo fra la fine di marzo, appunto, e le prime settimane di aprile. Dopo di questo ci arriverà ogni anno questo documento, sempre in questo periodo? Certamente. Perfetto. Allora, Stefano da Perugia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. E sottolineo, non smettete mai di fare questi approfondimenti. Grazie Stefano, detto, ci proviamo. No, ma è fondamentale. Detto questo, una curiosità, dottor Lo Conte, che ho apprezzato tantissimo in quest'ultimo suo passaggio, di lucidità nel dire a tutto il mondo quello che sta accadendo in Italia. Una curiosità per la mia pensione, io sono uno di quelli sfortunati del 1965, più o meno sfortunati, che puntano ai 40 anni di contributi, che dovrebbe essere, credo e spero, mi auguro, ancora il punto di riferimento per quelli come me che hanno più o meno 10-11 anni. Sono nato nel 1965, 20 maggio, la mia curiosità è capire se ho 29 anni di contributi verificati, settimane verificate che corrispondono a circa 29 anni di contributi, settimana più, settimana meno, con il anno del militare già riscattato, dato al distretto di Perugia, con uno stipendio netto in busta paga importante, sono un quadro di circa 3.800 euro al mese, ma avendo alle mie spalle però un'attività professionale di apprendista, tanti piccoli lavori fatti fino a 10 anni fa. Cosa può accadere alla mia pensione? Ecco, la Stefano, che aspetti lì, vediamo se Marco ha bisogno di altre informazioni, visto che ha un computer che praticamente diceva, a me dà di spalle. Sì. No, diceva 3.800 euro al mese netti. Netti. Se riusciamo a dare un'indicazione lorda, Stefano? Lordo andiamo sugli 85.000 euro più o meno, possibile. Ipotizziamo questa cifra. 29 anni di contribuzione, ci può essere utile questa informazione, di Marco? Che settore? Di che settore? Quadro in che settore, Stefano? Metalmeccanico, una grossa azienda del nord, metalmeccanico, però il mio dubbio è, io vengo da un paesino dell'Umbria, un piccolissimo paesino, dove invece per anni ho fatto dei piccoli lavori dall'apprendistato andando avanti. Però come la fase iniziale della contribuzione, se poi nel lungo termine può risultare penalizzante, ma è una piccola zavorra che si porta dietro, Marco. Sì, è chiaro che i calcoli vanno fatti, lo ripeto, lo deve fare chi ha in mano tutti i contributi accumulati, ossia l'ente previdenziale di riferimento. Noi in un software possiamo fornire una stima in base ad una serie di dati, che è quello che quelli che il nostro ascoltatore ci ha fornito. Per cui il fatto che oggi guadagni bene e che in passato invece possa aver fatto dei lavori meno remunerativi e quindi meno contributivi è un elemento da verificare, conti alla mano. Io quello che possiamo dire, ma lo ripetiamo, è una stima che ci può fornire comunque, che comunque è utile perché ci dà un'idea attraverso il software di Efeso, è che il tasso di sostituzione ipotizzato è quello del 58,9%, circa sotto il 60%, poco sotto il 60%. Questo nell'ipotesi, lo ricordiamo, una delle ipotesi di pensionamento a luglio 2001, evidentemente, come sottolineava Sorgi poco fa, allungando il periodo lavorativo questo tasso di sostituzione andrebbe a crescere, perché lavorando di più, avendo più contributi, si prenderebbe di più di pensione. Andando potenzialmente prima, evidentemente questa cifra e questa percentuale andrebbe a scendere. A scendere. Sergio Sorgi, allora, visto che quando arriverà il progetto, il prospetto esemplificativo personalizzato, saremo tutti ossessionati dall'andare a vedere il nostro tasso di sostituzione, a quali altre informazioni dobbiamo invece dare la caccia in questo documento? Allora, le è piaciuta tantissimo questa domanda? No, mi è piaciuta la domanda, sì, perché sentendo Marco mi stavo così, stavo riflettendo. In effetti, siccome anche noi siamo molto appassionati poi del singolo dato, e talvolta invece dobbiamo ricordarci che il singolo dato è un tassello di un pezzo più importante che è la nostra vita, e che la nostra vita non è tanto solo il tasso di sostituzione INPS o il maturato nel fondo pensione, ma è nella previdenza quella cosa che si chiama pianificazione, che ci richiede un approccio al futuro che non è solamente il dato. Ci manca un minuto e mezzo di tempo, io sì, mi rendo conto, allora, che vorrei argomentare molti di tre più cose. Sì. Allora, poi ci torniamo, magari facciamo una gran bella battaglia tra marzo ed aprile, fino alla fine di aprile, allora, su questo argomento. Allora, cose velocissime. Prima cosa, quindi, attenzione, i dati vanno inseriti in una cornice complessiva che è la pianificazione del futuro. Per questo serve qualcuno che ci aiuti a farlo, perché non siamo esperti. La seconda cosa, ed è relativa a quello che dicevamo prima, siccome c'è così tanta difficoltà a rappresentare i prospetti esemplificativi, le buste arancioni e via dicendo, faccio una proposta strana. Esiste in Italia l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che elabora norme di qualità condivise relative al welfare, all'informazione, ai cittadini e ai ruoli. Allora mettiamo insieme le istituzioni, il mercato, i consumatori, e definiamo, prima che si faccia informazione così raffazzonata, quali possono essere degli standard di qualità che soddisfino tutti e aiutino le persone a essere educate. Per esempio, fra tutti i fondi pensioni negoziale, il documento avrà uno standard unico, o ogni fondo fa per conto suo? No, dovrebbe, i criteri sono condivisi già, tra, ecco, tutti i fondi, già standardizzati, tra tutti, sì, i fondi. Poi magari possono cambiare le schermate, le videate, ma sostanzialmente i criteri, quelli che abbiamo citato prima, sono uguali. Allora, sentite la sigla, devo salutarvi. Facciamo una cosa, che non appena cominceranno ad arrivare, mi rivolgo agli ascoltatori, scriveteci se il documento vi arriva nelle prossime settimane, non appena avremo, come dire, un bel po' di documentazione da mettere a confronto, ritorniamo su questo argomento, vi aiuteremo a leggerlo, a capirne qualcosa di più, e soprattutto vi faremo capire che cosa ne dovete fare. E tutti gli ascoltatori che non sono riusciti ad accontentare, ad andare in onda, a mandare in onda, scriveteci anche voi. Girerò tutte le domande a Sergio Sorgi, visto che è stato tanto lontano dai nostri microfoni, adesso gli faccio recuperare praticamente il tempo perso. Grazie Marco, grazie Sergio, grazie a voi. Buon lavoro, noi ci sentiamo domani, buona giornata.